America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. This land is your land and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. This land is my land, Woody Guthrie, grandissimo interprete folk popolare americano. Questa è una canzone che è entrata a far parte ormai della mitologia del paese. Oggi 4 di luglio si celebra l'anniversario dell'indipendenza americana, l'anniversario della separazione dalla Gran Bretagna. Grande giornata, grande festa popolare che appartiene a tutto il paese. Ne parleremo un po' più in là, ma vorrei prima soffermarmi su un paio di cose, su luci e ombre che appartengono a questo 4 di luglio. Come si avvicina, come vive l'America questo 4 di luglio? Beh, un 4 di luglio che sul piano della politica vede il paese diviso, un paese polarizzato, Barack Obama contro Mitt Romney, una Corte Suprema che appena appena espresso un giudizio che ha lasciato esterefatti i repubblicani. Sul piano economico le cose non vanno benissimo. Beh, fra le luci abbiamo un po' di notizie positive. Alcune, devo dire, vengono da collegamenti anche con l'Italia. Per esempio, la Chrysler ha annunciato ieri un aumento, pensate, delle vendite del 20%, e per festeggiare la Fiat ha annunciato che avrebbe acquistato un altro 3,3% di Chrysler da Weber, che è il fondo pensione controllato dalla United Auto Workers, che è il sindacato dell'auto americana. A questo punto la Fiat ha il 61,8%, e Marchionne, in una dichiarazione che ha fatto Barnes l'altro giorno, ha detto: non ho dubbi che acquisteremo tutto quello che possiamo acquistare. E ha aggiunto anche una frase piuttosto significativa quando ha detto che se la Fiat oggi ha un futuro, lo ha grazie a Chrysler. Bene anche le vendite della Ford, più 7%, bene le vendite della General Motors, più 16%. L'auto è l'equivalente del sogno americano. Mi ricordo che una volta il vicepresidente della General Motors, quando le cose andavano male, mi disse: ma io già immagino il nostro futuro, perché il nostro futuro è un futuro di ritorno alle vendite, perché alla fine essere americani significa essere seduti in macchina, guidare per queste grandi autostrade in queste sterminate pianure con la radio accesa. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the Road Again, Willie Nelson, un altro grande classico americano. In effetti oggi gli americani sono in movimento un po' dappertutto nel paese, grandi barbecues, grandi feste di paese, grandi feste in famiglia, grandi riunioni. Vi dicevo che ci sono anche delle ombre: se le auto stanno migliorando e forse il sogno americano un pochettino ritorna. Tra l'altro si è parlato molto del sogno americano, un sogno un po' ammaccato, ma che tutto sommato resta. Ecco, a guastarlo ieri è venuta la signora Lagarde, che il giorno prima del 4 di luglio ha presentato il rapporto del Fondo Monetario Internazionale, pubblicato in base all'articolo 4 dello statuto del fondo, che prevede delle consultazioni tra l'istituzione multilaterale e i paesi membri. Questa volta è toccato agli Stati Uniti, altre volte è toccato all'Italia. La Lagarde, devo dire, dal punto di vista del rapporto non ha detto granché di nuovo, però ha fatto anche delle dichiarazioni piuttosto preoccupanti sulle prospettive della crescita americana. E torniamo un po' a quello che si diceva ieri, cioè che a questo punto non è più soltanto l'Europa che preoccupa, ma è un aggravarsi della debolezza dell'economia globale. Sentiamola Lagarde. I would say that first of all the US economic recovery remains tepid and downside risks have intensified. La ripresa americana, dice la Lagarde, resta tiepida, i rischi di una battuta d'arresto però sono cresciuti, da una parte a causa di fattori esterni come la crisi dell'Eurozona e il potenziale che questa crisi possa aggravarsi, ma anche a causa di fattori interni come la questione fiscale e il problema del tetto sul debito, la questione fiscale, la rupe fiscale. Ecco, sono due componenti diverse che fanno parte della stessa medaglia, perché se da una parte la debolezza americana sta contagiando l'America, dall'altra, se l'America non riuscirà a risolvere, come dovrebbe e come io mi aspetto che succeda, i suoi problemi fiscali, e dovrebbe risolvere, vi do anche delle date precise, tra il 6 di novembre, subito dopo le elezioni americane, e il 31 di dicembre, quando scadrà il termine ultimo per evitare l'applicazione di quei meccanismi automatici voluti dalla Simpson-Bowl, la commissione bipartitica, che aveva stabilito che se i politici non si fossero messi d'accordo, a quel punto il disavanzo andava tagliato e quindi sarebbero intervenuti dei tagli automatici di spesa, ma anche delle tasse, degli aumenti fiscali, aumenti delle tasse, sempre automatici. Io sono convinto che invece si metteranno gli americani d'accordo prima del 31 di dicembre e quindi quel pericolo, quella rupe di cui molto si parla in Europa, col terrore che poi possiamo cascarci tutti, perché è chiaro che se l'America dovesse entrare in una congiuntura negativa a quel punto trascina tutti con sé ed è un contagio nuovo che parte questa volta di nuovo dalle sponde atlantiche dopo la prima partenza, quella del 2007-2009, quando ci fu la prima crisi finanziaria. La marcia nazionale degli Stati Uniti in America, Stars and Stripes di John Philip Sousa, un classico che sentiamo ogni volta durante le convention e che sentiamo e sentiremo oggi durante le parate che ci saranno in mille paesini d'America, dove sfileranno le bande delle high school, delle scuole superiori, dove sfileranno i veterani, i militari, i pompieri, le ambulanze, insomma una grandissima festa popolare che si chiuderà un po' come quella che inaugura l'estate con un grande barbecue. Dunque un'America che riflette, perché dietro le parole di Christine Lagarde ci sono poi dei dati non particolarmente incoraggianti. È vero che ieri gli ordinativi alle fabbriche sono migliorati dello 0,7% per il mese di giugno contro un aumento atteso dello 0,1%, però il giorno prima avevamo visto che c'era stato invece un crollo verticale dell'indice manifatturiero, quindi sono dati questi che preoccupano. La mia impressione è che l'economia americana si stia avviando su un percorso di ulteriore debolezza, qualche cosa dovrà essere fatto. Nel frattempo l'estate va avanti, nel frattempo il 4 di luglio continua a essere festeggiato qui sulla costa atlantica davanti all'oceano nelle grandi feste in spiaggia, i candidati sono in giro a raccogliere fondi. Beh, Barack Obama era a Camp David e oggi alla Casa Bianca ospiterà i militari, però subito dopo ci saranno grandi fundraising. Anche questa tradizione fa parte del 4 di luglio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che, beh, di questi giorni è proprio il caso di dirlo, vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, 4 di luglio un po' difficile, ma anche 4 di luglio di grande estate, e nell'estate alla fine si cerca di dimenticare, si cerca di viverla bene, questa estate si cerca di viverla facilmente, e dunque di Billie Holiday vi faccio ascoltare Summertime. Cry. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!